Sì, come ha detto Martino, infatti noi quando abbiamo un po' pensato a come strutturare questa lezione eravamo un po' indecisi perché anche per altri interessi nostri la crisi, effettivamente gli eventi degli ultimi 4-5 anni danno una vastità di esempi, di possibilità, di argomenti, di tematiche su cui discutere e da approfondire. Avevamo individuato una serie di categorie che hanno a che fare con la storia sociale, la storia politica, la storia ovviamente economica e così via. Alla fine abbiamo pensato, ma perché non ci concentriamo su un fatto che, su un episodio tuttora in corso, che viene anche poco considerato, a parte gli inizi della vicenda, il processo di Trani compare ogni tanto sulle pagine dei giornali. Non è, premessa, non è un evento, secondo noi centrale, né tantomeno, verranno fuori delle verità, importantissime e fondamentali dall'indagine del processo. Però, secondo noi, il processo di Trani è un fenomeno, è un episodio che racchiude e intercetta tutta una serie di aspetti relativi alla crisi. E partiamo con che cos'è il processo di Trani, giusto per fare chiarezza o per chi non lo sapesse oppure per chi non fosse aggiornato. Mi scuso per il carattere fitto, però c'erano un po' di cose a dire. Il processo di Trani si apre nell'estate del 2010, quando Federconsumatori e Adusbef, che è l'agenzia di controllo per quanto riguarda gli investimenti bancari nel nostro paese, aprono una, e il cui direttore è un ex deputato dell'Italia dei Valori. Federconsumatori e l'Adusbef aprono una serie, anzi propongono, portano in una serie di procure della Repubblica una denuncia contro prevalentemente Moody's, ma poi nel corso del tempo presenteranno una serie di fascicoli anche nei confronti delle altre agenzie di rating. Qual è l'accusa? L'accusa è che in determinati momenti, in determinate fasi importanti dell'attuale storia economica, delle attuali vicende economiche del nostro paese e dell'Europa, le agenzie di rating hanno a mercati aperti, oppure nei giorni principali, ad esempio, della crisi del debito greco, piuttosto che della destabilizzazione del cosiddetto attacco all'euro, hanno dato tutta una serie di informazioni e valutazioni dagli accusatori, ovviamente considerate false e tendenziose, allo scopo di destabilizzare e destabilizzare l'economia europea, in particolare quella nazionale italiana, ma anche con lo scopo appunto di destabilizzare i mercati e manovrare i mercati finanziari. I tre fascicoli riguardano tutta una serie di episodi specifici e tutta una serie di documenti e di valutazioni uscite emesse dalle tre agenzie in date particolari, perché infatti una delle cose che viene sempre detta riguardo questo processo è un processo troppo generico, ci sono più un attacco alle intenzioni e allo statuto proprio delle agenzie di rating non ci sono delle accuse specifiche. In realtà ci sono delle analisi su delle dichiarazioni, su delle valutazioni, su delle previsioni fatte dalle tre agenzie in periodi fondamentali. Secondo noi è importantissimo mettere quali sono queste date a cui si riferiscono le tre agenzie, a cui si riferiscono, scusate, gli accusatori, perché se contestualizzate all'interno del momento in cui effettivamente Moody's, Fitch e Standard & Poor's emettevano queste valutazioni, possono essere hanno una loro logica nel contesto generale, secondo appunto la procura di Trani e secondo appunto le due agenzie che hanno sporto denuncia. Un'altra particolarità molto interessante: quali sono i testi e i periti che i magistrati di Trani hanno utilizzato e hanno chiamato a testimoniare per portare avanti le loro argomentazioni e per costruire i fascicoli di accusa. Vediamo economisti, ad esempio è stato sentito Paul Krugman, analisti finanziari anche di agenzie di rating minori, sono stati sentiti giornalisti economici, in particolare del Sole 24 Ore, ex ministri dei governi che erano al potere nel momento in cui le tre agenzie emettevano i loro giudizi, quindi ex ministri del governo Berlusconi. E c'era anche l'ipotesi di sentire il Premier Monti, cosa che poi non è stata fatta. E tra, le altre, tra gli altri testi è stato anche chiamato l'attuale presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Chi sono i periti? I periti sono per lo più oltre a tecnici della finanza, persone che hanno appunto studiato matematica finanziaria e i meccanismi di funzionamento dei mercati, sono stati anche chiamati professori di economia, ad esempio dell'Università Bocconi e dell'Università di Bari, per studiare i punti deboli di quelle che erano delle valutazioni fatte dalle tre agenzie. Le accuse per tutte le agenzie riguardano la manipolazione dei mercati, la diffusione di giudizi falsati, con uno scopo preciso, che era appunto quello di indebolire l'euro e indebolire l'economia italiana. In particolare, per quanto riguarda Moody's, se andiamo a vedere il periodo, era maggio 2010, era il periodo in cui era scoppiata con tutta la sua violenza la crisi del debito greco, e la valutazione dell'agenzia di rating aveva a che fare con un molto probabile contagio della crisi dalla Grecia all'Italia e poi in generale ai cosiddetti PIGS, ai paesi dell'area mediterranea. Tra maggio e luglio di quest'anno, del 2012, si sono chiuse tutte le indagini per quanto riguarda l'inchiesta preliminare. Adesso si aprirà invece il processo vero e proprio. Sono stati chiamati come imputati e quindi accusati una serie di personaggi anche molto importanti del mondo del rating, ma in generale del mondo della finanza. Qui li abbiamo messi perché? Perché se andate, io mi scuso perché volevo portare un estratto del libro di Aldo Giannulli 2012, La Grande Crisi, perché veniva analizzato come alcuni dei dirigenti e degli analisti interni alle tre agenzie avevano anche dei passati come dirigenti di altre grosse agenzie multinazionali. In questo, un procedimento analogo che si collega, anche se ha una storia a parte, è quella riguardo lo scandalo Euribor, quindi i tassi di interesse medi delle banche dell'Unione Europea, che si è aperto invece nell'agosto 2012 con modalità analoga, nel senso che se anche qui vediamo le due agenzie, le due associazioni, Federconsumatore e l'Adusbef, che hanno mosso appunto accuse, hanno elaborato una serie di accuse e hanno depositato questi fascicoli in diverse procure della Repubblica. Se non mi dispiace, vado avanti, poi le domande le vediamo alla fine. Perché Trani? Perché Trani da un punto di vista generale? Da un punto di vista generale, quindi dal punto di vista di qualsiasi cittadino, attivista o meno, il processo di Trani ha un interesse perché è la prima volta che avviene che una procura di uno Stato sovrano muova un'accusa, muova un processo vero e proprio nei confronti delle agenzie di rating. Ci sono dei casi simili, ad esempio per quanto riguarda, ad esempio in Inghilterra e negli Stati Uniti, in Inghilterra per quanto riguarda lo scandalo Libor, che è analogo invece a quello Euribor, e invece negli Stati Uniti per quanto riguarda i fallimenti delle grosse banche, in particolare la Lehman Brothers, fallita a fine 2008. Però per quanto riguarda le agenzie di rating, questo è il primo processo di una certa portata, comunque di una vasta portata. Lo scopo delle associazioni di vigilanza che rappresentano i cittadini italiani e che vigilano su tutta una serie di attività economiche che vengono fatte con i soldi anche dei contribuenti italiani, hanno lo scopo di cercare di capire in qualche modo e divulgare, anche rendere comprensibile al risparmiatore medio italiano quelli che sono i processi che secondo le associazioni hanno causato l'impoverimento della popolazione italiana e anche della speculazione sul debito. In questi fenomeni, in questi processi, il ruolo delle cosiddette tre sorelle, ovvero le tre agenzie di rating, secondo gli accusatori è un ruolo importante e fondamentale. In terzo luogo l'indagine giudiziaria aiuta a capire, a comprendere, a rivelare tutta una serie di meccanismi di destabilizzazione dei mercati e di funzionamento degli attuali mercati finanziari, e in ultimo luogo c'è la questione, un dibattito ben più ampio, che riguarda invece il tema della sovranità ai tempi dell'ipercapitalismo finanziario, e quindi per quanto riguarda la sovranità di stati, popolazioni e soggetti finanziari di diversa natura. Ma perché anche da un punto di vista storico, dal punto di vista dello storico. Come detto prima, è un unicum in questo momento per quanto riguarda le agenzie di rating, quindi un processo contro le agenzie di valutazione che devono valutare, in primo luogo, il debito sovrano degli stati, l'affidabilità o meno dei titoli di debito sovrano degli stati, ma anche delle banche dei singoli paesi e un'altra serie di valutazioni finanziarie minori. È interessante anche per quello che diceva anche prima Martino, ovvero l'incontro tra storia e giurisprudenza. Questo processo produrrà tutta una mole di documenti, tutta una mole di fonti e di possibilità di studio per gli storici per quanto riguarda appunto l'attuale sistema finanziario e l'attuale meccanismo che ha causato la crisi. Al di là, questo noi ci teniamo sempre a dirlo e a chiarirlo, come l'abbiamo detto anche per altre tematiche, tutte le volte che storia e giurisprudenza si incontrano, dobbiamo fare, in quanto storici, dobbiamo distinguere i piani e dobbiamo fare affidamento, non dobbiamo fare troppo affidamento sul raggiungimento o meno di una verità giudiziaria. Ovviamente bisogna distinguere da piano a piano, da argomento a argomento, ma la verità giudiziaria in alcuni casi può mancare, può essere parziale, e in altri casi la storia, non che giunga a una verità assoluta, ma la storia può invece giungere a ricostruzioni che in alcuni casi i processi non riconoscono. Mi viene in mente il caso della strategia della tensione, perché è una delle tematiche di cui più ci siamo occupati, ma anche per quanto riguarda e riguarderà il processo di Trani, al di là dei risultati giudiziari effettivi, la storiografia può usufruire in alcuni casi delle ricerche, delle indagini, delle inchieste giudiziarie della magistratura. Ancora un esempio di storia del presente, anche per gli argomenti, per i motivi detti precedentemente, e anche per quanto riguarda quello che ci ha detto Martino prima, riguardo la vastità e la differenza delle tipologie di fonti che esistono oggi per i contemporaneisti rispetto anche soltanto a quelle che avevamo a disposizione fino a pochi anni fa. Oltre che rapportarsi con un processo in corso, o anche quando sarà finito, presenta anche tutta una serie di particolarità per quanto riguarda le modalità di ricerca e di approccio. In ultimo, abbiamo messo anche perché il processo di Trani, questa è un'ipotesi, non è come tutto il resto d'altronde, però può essere anche valutato come il risultato di una pressione mediatica non indifferente, ovvero domanda, le agenzie di rating funzionavano anche prima della crisi, esistevano anche prima della crisi, le agenzie di rating producevano giudizi su cui era lecito dubitare che avevano un interesse anche prima della crisi, perché proprio adesso una procura di uno Stato sovrano decide di aprire di accettare anzitutto la denuncia di associazioni di cittadini e decide di aprire un processo contro le agenzie. Sicuramente questo è un portato della nostra epoca e del fatto che da quando è scoppiata la crisi gli argomenti di economia e di finanza sono diventati non più comprensibili, perché io questo non lo credo, però sono diventati sicuramente un tema di più ampio dibattito, e persone che magari prima non si occupavano assolutamente o non parlavano assolutamente di crisi e di temi di finanza ed economia hanno invece cominciato ad approcciarsi. Io non sto dicendo che questo sia bene o male, sto semplicemente facendo un'osservazione. E la domanda è, può essere il processo di Trani anche il risultato dell'influenza dei media, del dibattito mediatico e politico sull'opinione pubblica? Questo è un punto di domanda che riguarda non soltanto però la crisi, ma riguarda anche tutta un'altra serie di argomenti nell'epoca della società dei media di massa. Come ci siamo rapportati e come ci siamo mossi nei confronti del processo di Trani? Come vi ho detto, le inchieste preliminari si sono chiuse tra maggio e luglio di quest'anno, adesso tra poche settimane dovrebbe aprirsi il processo vero e proprio, quindi è un caso che dove attualità e storia contemporanea si intrecciano si sovrappongono in maniera pressoché perfetta. Però secondo noi uno storico deve occuparsi delle tematiche del suo tempo, lo storico si deve muovere in quelle che sono le grandi domande e quelle che sono le tendenze del proprio tempo. E abbiamo detto appunto, come vi dicevo prima, il processo di Trani può rappresentare un'occasione, uno stimolo per approfondire tutta una serie di tematiche legate alla crisi, tema centrale in questi anni. Come ci siamo mossi? Allora, anzitutto la premessa, cioè noi non stiamo facendo un'inchiesta giornalistica, vogliamo fare un'inchiesta storica, passatemi il termine, vogliamo iniziare a bozzare un approccio storico al tema, al caso specifico del processo di Trani. E allora qui c'è appunto le premesse necessarie, le ricostruzioni necessarie, che sono storia e ruolo delle agenzie di rating tramite studi, libri, ricerche che soprattutto dal 2008 in poi sono stati pubblicati con maggiore intensità, quelli che sono gli eventuali precedenti di processi nei confronti delle agenzie di rating, analizzare le agenzie, quanto e come le agenzie di rating e il rating in generale sono diventati tema di dibattito pubblico, riferendosi sempre al punto che dicevamo prima sulla pressione mediatica sull'opinione pubblica e sui giudizi e gli interessi della popolazione. E poi la contestualizzazione storica delle accuse, ovvero capire a quali date, a quali periodi si riferiscono le accuse nei confronti delle tre agenzie. Come ci siamo mossi? Ma ci siamo mossi cercando di fare una ricostruzione cronologica tramite giornali e riviste. Abbiamo fatto un elenco effettivamente dei soggetti che sono coinvolti nel processo. Abbiamo cercato documenti quali e come eventualmente sono accessibili i documenti riguardo il processo, piuttosto che non ci sono soltanto i documenti giudiziari, ci sono anche i documenti prodotti dagli analisti, piuttosto che anche critiche fatte da giornalisti economici, da ricercatori economici e così via, a quelle che invece sono le valutazioni delle tre agenzie. Le ricerche di un contatto diretto per cercare di capire, questa sembra una cosa banale ma non lo è, perché vi dirò, noi abbiamo provato a contattare la Procura di Trani, le due associazioni, ovvero Federconsumatori e l'Adusbef, e abbiamo anche provato a contattare gli uffici stampa o i responsabili delle relazioni col pubblico delle tre agenzie. Il risultato è stato piuttosto complicato, perché per tutta una serie di motivi che poi magari, se volete, approfondiamo, e capire appunto quali sono accessibili e come riguardo i documenti. Le difficoltà sono state legate soprattutto ai procedimenti burocratici, nel senso che anche quando i documenti sono eventualmente accessibili, c'è tutta una serie di problemi legati al fatto che magari non sono digitalizzati e quindi va fatta richiesta, questo per quanto riguarda il Tribunale di Trani, va fatta richiesta e bisogna andarli a ritirare lì sul posto, oppure per quanto riguarda ad esempio i documenti prodotti da Federconsumatori nei mesi del processo, nel momento in cui noi abbiamo provato a contattare via email chiedendo se era possibile avere dei documenti riguardo il processo, anche lì il problema è stato che dobbiamo mandare una richiesta specifica a Federconsumatori nazionali. Noi pensavamo di aver contattato effettivamente la sede nazionale, ma no, va contattato l'ufficio preposto all'archiviazione dei documenti, ai rapporti col pubblico e così via. Le problematiche riguardo il fatto che ci stiamo occupando di un processo tuttora in corso, e poi per quanto riguarda i documenti e le informazioni reperibili dalle agenzie di rating, c'è il problema che le agenzie di rating, come sapete, non è un problema, non sono limiti che possiamo avere soltanto noi, sono limiti che hanno anche gli stessi periti, perché tutta una serie di metodologie, di formule, di algoritmi con cui, e anche di motivazioni scientifiche tra virgolette, con cui le agenzie di rating non argomentano ma producono le loro valutazioni, sono segreti e privati, e quindi anche gli stessi magistrati hanno difficoltà a reperire effettivamente quali sono le argomentazioni matematiche e finanziarie alla base di tutta una serie di alla base delle valutazioni che abbiamo visto, che sono sotto accusa in questo momento. La domanda poi è anche relativa a come studieranno in questo caso gli storici del futuro, quindi la questione dei documenti, degli archivi, dell'accesso alle informazioni. Non sto a ripetere perché sono anche cose che ha accennato Martino prima. E allora la domanda è: che cosa possono fare i contemporaneisti oggi? È evidente l'intreccio tra il dibattito politico, tra l'attualità e l'interesse storico. Però da un lato si può fare un inizio di lavoro storico, un inizio di approccio storico per i colleghi di domani, che in realtà, a pensarci bene, non essendo noi storici, teoricamente gli storici di domani dovremmo essere noi. Quindi, però, cominciare ad abbozzare una ricerca per quando il processo sarà finito, per quando i documenti, si spera, saranno accessibili, per quando eventualmente ci saranno anche tutta una serie di disposizioni legislative sui segreti delle agenzie di rating, sulle modalità di funzionamento e di azione di queste agenzie. E poi, in conclusione, questo è un principio più generale, ovvero la formazione di un senso storico nell'affrontare un caso specifico e in generale l'attuale crisi finanziaria, perché anche il senso stesso del nostro laboratorio vuole essere quello di non dare delle risposte, ovviamente, perché stiamo parlando di tematiche di un processo, di un fenomeno tuttora in corso, però è cercare di capire quale può essere l'utilità sociale, l'utilità pubblica degli storici, delle ricerche storiche, nella comprensione delle cause che hanno portato alla crisi finanziaria, ma anche nel cercare di capire le tendenze future e anche nel cercare di dare in fondo una prospettiva di più largo respiro al dibattito pubblico per quanto riguarda i problemi principali della crisi.